E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Obviously we can't bring back the friends that were lost. Avete ascoltato le voci di sottofondo, la voce del presidente americano durante la cerimonia di ieri a Ground Zero. Ricordiamolo, è la prima volta che Barack Obama va a Ground Zero da presidente. Una cerimonia sobria, un pompiere, una poliziotta hanno offerto al presidente una corona di fiori bianchi, rossi e blu, poi l'hanno scortato fino a quando Barack Obama ha poi posto la corona appunto a Ground Zero per rendere omaggio ai quasi 3.000 morti dell'11 settembre. Poco dietro poi si vedeva questa straordinaria torre che si sta innalzando e è la prima del progetto di ricostruzione di Ground Zero, o meglio ce n'è una che è già stata costruita dietro ma è fuori da quello che era il territorio dove c'erano le due torri gemelle che sono state buttate giù dai killer suicidi. E tra l'altro la costruzione procede con rapidità, a occhio credo che siamo arrivati già al 60esimo, forse al 70esimo piano, e ci sono già per una buona parte dei lati di questo grattacielo già le vetrate. Well, what happened on Sunday, because of the courage of our military and the outstanding work of our intelligence, sent a message around the world, but also sent a message here back home, that when we say we will never forget, we mean what we say. Obama non ha voluto pronunciare un discorso vero e proprio, però si è incontrato con i parenti delle vittime, con i poliziotti, ha avuto lunghe conversazioni, one to one, proprio ha passato parecchio tempo a chiacchierare con persone che ormai da quasi 10 anni hanno perso chi una moglie, chi un padre, chi un fratello, un figlio, e poi si è trattenuto coi poliziotti e soprattutto, e devo dire questa è stata una delle parti più interessanti, anche più toccanti della visita, ha visitato un battaglione dei pompieri a Midtown, sulla 48esima West, ed è un battaglione particolare perché ha perso tutto il turno che quel giorno era schierato per aiutare, 15 uomini sono morti tutti, ma ha colpito molto perché questo presidente così pacifista, sempre pronto al dialogo, che tendeva la mano, sta imparando a capire cosa significa essere presidente degli Stati Uniti d'America, le sfide, le minacce, i bracci di ferro continui che arrivano, ha dato una risposta sintetica secondo me a tutte le proteste, alle minacce che ieri in qualche modo si sono levate magari alle Nazioni Unite oppure proprio dal Pakistan per come è stata gestita l'operazione oppure come hanno protestato i pakistani per aver invaso il territorio pakistano. Ebbene, a tutti questi signori Barack Obama ha detto: quel che è successo domenica ha inviato un messaggio. Quando diciamo che non dimenticheremo mai, lo intendiamo davvero. Poi il presidente si è seduto a colazione, ha mangiato con i pompieri melanzana alla parmigiana, pasta con gamberi e capesante, pomodori secchi e panna. E uno dei pompieri, Leonard Seely, subito dopo che il presidente è andato via, ha detto: ci siamo seduti da gentiluomini attorno alla tavola e abbiamo celebrato il fatto che giustizia sia stata fatta. Chiaramente né i pompieri, né gli americani in genere, né sicuramente i parenti delle vittime ritengono che gli americani, nel momento in cui sono andati in un territorio straniero per colpire il loro nemico numero uno, ecco, abbiano commesso una violazione di qualche genere. E proprio questi ragazzi, questi Navy SEALs, possiamo anche definirli come un equivalente dei nostri lagunari, ecco, fra poche ore saranno alla Casa Bianca per essere ricevuti dal presidente, che li ringrazierà a nome della nazione. Sarà un incontro riservato. È un corpo, questo dei Navy SEAL, assolutamente misterioso proprio per il lavoro che devono compiere. Sono degli uomini straordinari, non solo sul piano della preparazione fisica ma anche su quello della preparazione intellettuale, conoscono a fondo le situazioni regionali, le reazioni psicologiche del nemico, debbono prendere decisioni nel giro di una frazione di secondo, insomma sono un po' dei super uomini e quindi debbono essere protetti in quello che è poi il loro ruolo di vita civile. È giusto però che sentiamo quali sono state le lamentele, le rimostranze dei pakistani, delle Nazioni Unite, di Ashfaq Parvez Kayani, che è il comandante delle forze armate, il quale, pensate, che ha minacciato di ridurre la presenza americana in territorio pakistano. Insomma, i pakistani si stanno indignando del fatto che gli Stati Uniti sono andati a beccare il nemico pubblico numero uno che, guarda caso, viveva amabilmente in una città a 40 miglia dalla capitale, vicino a un garrison, vicino a una delle scuole militari più importanti. E dunque, chi sapeva, chi non sapeva? Dal punto di vista americano si ritiene che forse i vertici non sapessero, in realtà tutti pensano che sapevano benissimo, però gli danno una copertura per che cosa? Per dimostrare che da parte loro c'è stato comunque un senso di colpa per quel che è successo, per aver avuto fra loro Osama Bin Laden, e dunque procederanno con una purga che potrebbe diventare poi la piattaforma su cui si ricostruiscono i rapporti fra Stati Uniti e Pakistan. L'altra reazione è stata di Salman Bashir, ha detto che il Pakistan aveva già pronti gli F-16, anzi questi caccia erano già decollati perché avevano timore che ci fosse un'invasione nel loro territorio, quindi sarebbe stato il rischio di un pericolo, gli americani non li avevano avvertiti, poi però quando sono arrivati gli elicotteri americani erano già spariti. Ci sono molte cose che non sapremo mai di questa dinamica fra Pakistan e Stati Uniti, chi sta facendo che cosa, qual è il gioco delle parti. Sicuramente da qui si dovrà uscire, perché il Pakistan ha bisogno dell'America, l'America e l'Occidente hanno bisogno del Pakistan. Ha colpito forse un po' di più la dichiarazione di Navi Pillay delle Nazioni Unite, l'alto commissario per i diritti umani, che vuole comprendere, dice, come si è sviluppata l'operazione che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden, e dice: credo che non solo il mio ufficio ma tutto il mondo abbia il diritto di sapere cosa è successo. Le Nazioni Unite condannano il terrorismo, ma ci sono anche delle regole elementari che debbono essere rispettate nella conduzione di operazioni di antiterrorismo, debbono avvenire, dice, nel rispetto delle leggi internazionali che non autorizzano la tortura nelle esecuzioni extragiudiziali. Beh, molto facile per la signora Pillay dire questo dal suo comodo ufficio alle Nazioni Unite, non credo che sarà stato altrettanto facile per i Navy SEALs che si trovavano nel covo del nemico poter pensare se c'era il tempo di muoversi in un certo modo o nell'altro. E semmai la domanda va girata a Pillay: è legittimo che frange dei servizi pakistani, come sappiamo hanno fatto e continuano a fare, abbiano aiutato e aiutino Al-Qaeda per portare a termine operazioni di guerra contro i soldati della NATO in missione autorizzata dall'ONU per difendere l'Afghanistan? Vi lascio con questa domanda. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Tori Amos ha annunciato l'uscita di un nuovo album, titolo Nights of Hunters, di Tori Amos, Cornflake Girl. Never was a cornflake girl, thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!